L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati, una nuova puntata dell'Altro Pianeta nella quale sarà nostro ospite Marino Piasentala. Avete già conosciuto in molte puntate dell'Altro Pianeta, di solito come operatore nel settore delle rinnovabili. Questa volta invece Marino, bentornato innanzitutto. Grazie, buongiorno a tutti. Questa volta invece ci presenti diciamo un'altra iniziativa che non è così quella tua consueta, ma che comunque è molto vicina, perché parliamo del primo incontro nazionale operatori del settore delle rinnovabili che tu stesso hai deciso fosse il momento di convocare. Sarà il 29 di marzo a Bologna e prima di tutto ti chiediamo, Marino, perché? Allora, sono successe tante cose in questi mesi. Ho pensato, siccome conosco gli innovatori, quelli che fanno gli ingegneri, che fanno ricerca nelle aziende, che hanno fatto delle bellissime cose, ho pensato di riunirli tutti assieme per dire alla politica lo stato dell'arte dell'innovazione italiana, perché noi siamo molto avanti nelle rinnovabili, siamo molto più avanti dei tedeschi, a volte anche degli americani. Abbiamo una nostra genialità e una nostra industria che si confronta sul mercato internazionale senza paura, e sembra che solo in Italia i nostri politici non lo sappiano. Allora ho detto, riuniamoci, diciamo tutto quello che dobbiamo dire sulle innovazioni, sullo stato proprio delle cose fatte in Italia e che vengono fatte, per esempio gli accumuli, le batterie. Noi siamo in grado comunque di fare, ci sono già delle piccole smart city assolutamente autonome, e verrà appunto un ingegnere che spiegherà come ha fatto a mettere assieme più e più abitazioni e collegarle in una rete e renderle autonome. Un altro ingegnere ci racconterà la sua esperienza con le batterie, verranno gli ingegneri che hanno fatto le eoliche in autostrada. Insomma, abbiamo riunito questi 100 ingegneri e tecnici perché alla fine vogliamo dire alla politica che gli interventi che stanno facendo, che drogano il mercato, l'eccessiva burocratizzazione, sono errori clamorosi, non permettono lo sviluppo. In un momento in cui la Russia si sta comportando maluccio, ricorda un po'. Vabbè, siamo un po' tornati ai tempi del petrolio, quegli sceicchi, insomma, le crisi degli anni 70. Esatto, e invece a noi il gas non serve, noi dobbiamo liberarci proprio perché abbiamo altre tecnologie che sono estremamente più economiche, molto più vantaggiose e che si basano su una materia prima che in Italia non manca, cioè il sole. E questo vuol dire fare un grosso passo in avanti in tutti i sensi. Ecco, quindi il primo obiettivo di questo incontro del 29 di marzo è riunire, diciamo, i cervelli, e il secondo obiettivo è quello di formulare delle proposte, quindi sarà non tanto un convegno quanto un'assemblea propositiva. Sì, ci sono anche le associazioni di categoria del settore fotovoltaico presenti. Dei politici hanno garantito che porteranno alla Commissione Ambiente le nostre proposte e noi speriamo di stupire, anche perché non parliamo né di normative, non siamo burocratizzati, noi parliamo in modo molto schietto e cerchiamo di dire delle verità assolute, anche perché quando metti insieme 100 ingegneri in una stanza non è che puoi andare lì a dire delle cose che non sono vere, perché sono tutte persone molto molto competenti che hanno dimestichezza col settore e non puoi scappar via, insomma. Quindi insomma ci sarà anche l'occasione per chi volesse partecipare, ricordiamo la partecipazione è libera e gratuita, no? Sì. Ecco, sarà l'occasione di presentare anche dei dati o dei ritrovati o delle soluzioni che magari in alcune parti d'Italia ci sono, ma che non sono ancora state messe, diciamo, in comune, ecco. Sì, non sono state dette tutte le cose che stiamo facendo in Italia nel settore delle rinnovabili, e invece lì spero proprio che vi stupirete con gli speciali. Faremo delle artifici. Sono delle novità molto, molto, molto divertenti dal punto di vista di noi, per uno che è appassionato, ovviamente. Ecco, adesso non vorrei fare la facile battuta sul divertimento degli ingegneri, ma comunque. Io so che tu sei convinto del fatto che si possa fare questa terza rivoluzione industriale. Ci sono ovviamente i detrattori di questo. Tra poco ricordo agli ascoltatori che approfondiremo subito dopo la viabilità proprio il tema degli incentivi alle rinnovabili, quanto ci costano, quanto pesano in bolletta, che questo è uno degli strumenti che più spesso vengono tirati fuori. Un altro degli strumenti antirinnovabili di solito è proprio quello dell'accumulo, di cui tu accennavi prima, delle batterie, che affronterete, tema che affronterete lì a Bologna. Però appunto tu dici addirittura che è già in atto questa rivoluzione, ma che non ce ne rendiamo conto e che soprattutto la politica non se ne sta rendendo conto. Le rinnovabili italiane al 16 giugno dell'anno scorso hanno prodotto energia elettrica a costo zero ed è successo per molti giorni, per molte ore. Allora, oggi il 40% dell'energia è prodotta con le rinnovabili e dico, bisogna essere ciechi per non vedere quanti pannelli fotovoltaici ci sono in giro. Effettivamente tutto ciò è avvenuto, la rivoluzione industriale dal punto di vista energetico è in atto. Noi stacchiamo tutti i giorni qualche condominio dal gas. Il fatto che minacci di non darci più il gas a me fa quasi piacere, però questa rivoluzione che è in atto è inarrestabile. Ora o la politica si adatta e capisce che intanto gli incentivi alle rinnovabili non ce ne sono più, gli incentivi vengono dati solo agli inquinatori, drogando il mercato tra l'altro, per cui è una cosa abbastanza stupefacente quello che stiamo vivendo in Italia. Il fatto è che noi siamo rimasti legati a un'idea del fotovoltaico finanziaria. Infatti perché la riunione dei tecnici? Perché noi che siamo tecnici sappiamo che il pannello solare dura 80 anni, per cui quando io calcolo il costo del kilowatt, faccio il mio prezzo del mio pannello solare fotovoltaico, vedo quanti kilowatt produce in 80 anni e so il costo reale del kilowatt. Ebbene, il costo reale del kilowatt prodotto col fotovoltaico è irraggiungibile per qualunque altro mezzo che produca corrente elettrica. Ora occorre dare stabilità alla rete, occorre dare stabilità alla produzione e ai consumi, e questo dobbiamo farlo sviluppando la tecnologia degli accumuli oppure dei sistemi di pompaggio come nella vecchissima e gloriosa centrale idroelettrica di Entracque, dove già negli anni 60 hanno fatto i doppi invasi. Marino, dunque, il tempo che abbiamo a disposizione, diciamo, per il momento è finito, ma ovviamente torniamo sull'argomento nelle prossime puntate dell'Altro Pianeta. Ricordiamo agli ascoltatori l'appuntamento, però. Primo incontro nazionale operatori del settore delle rinnovabili, in programma sabato 29 marzo, nel pomeriggio, a Calderara di Reno, al Meeting Hotel. Siamo praticamente a Bologna. Buon lavoro e appuntamento alla prossima occasione. Prometto fuochi d'artificio. Molto bene. L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio, seconda parte dell'altro pianeta, e come anticipavamo prima è giunto il momento di parlare dei costi, degli incentivi alle rinnovabili. Ne parliamo in occasione appunto di questo incontro che vi abbiamo appena presentato, incontro nazionale degli operatori del settore delle rinnovabili, in calendario il 29 di marzo a Calderara di Reno, vicino a Bologna. Abbiamo raggiunto per parlare di costi di incentivi alle rinnovabili Alberto Poggio, che è ricercatore del Dipartimento Energia del Politecnico di Torino, in particolare docente di sistemi per l'energia e l'ambiente. Benvenuto Poggio. Buongiorno. Allora, cominciamo a farle la domanda più semplice, come diceva lei, anche più becera giustamente, cioè quanto ci costano questi famosi incentivi alle rinnovabili? Io le ho chiesto, quando ci siamo sentiti così, di spiegarci un po' quello che c'è nelle nostre bollette. Il tema ovviamente è molto ampio, però se vogliamo dare un'idea agli ascoltatori, che risposta può darci? Ma ci costano molto. Tanto per dare un'idea, nel 2013 abbiamo investito circa 11 miliardi di euro negli incentivi alle fonti rinnovabili, di cui una larga parte, circa i due terzi, sull'incentivo al fotovoltaico e l'altro terzo circa alle altre fonti energetiche rinnovabili, in particolare per la produzione di energia elettrica, dall'idroelettrico classico all'eolico, alle biomasse, alla geotermia e insomma un po' alle fonti che conosciamo e abbiamo sentito nominare in questi anni. È una somma ingente, molto rilevante, e che arriva fondamentalmente da una componente della tariffa della bolletta energetica, della bolletta dell'energia elettrica che paghiamo tutti i mesi con la fattura del nostro fornitore. Come funziona qui la ripartizione? Come sono divise? Allora, dunque, ci sono prima di tutto molti strumenti di incentivazione che si sono sovrapposti negli anni. Cioè abbiamo introdotto nell'arco degli ultimi 10-15 anni molte modalità per riconoscere alle fonti rinnovabili degli incentivi, dei sussidi, dei supporti per compensare il loro costo di investimento, che era generalmente più elevato di quello delle fonti in essere fino a quel momento, le fonti fossili. Questi strumenti hanno generato molte sovrapposizioni, in qualche caso anche delle asimmetrie o delle difformità di applicazione, ma nel complesso hanno consentito, soprattutto a metà degli anni 2000, un forte incremento della produzione da fonti rinnovabili, che è circa raddoppiata nell'arco degli anni dal 2008 fino al 2012-2013, quindi un incremento molto significativo. È ovvio che questo incremento è stato possibile perché un investitore che realizza un impianto a fonte rinnovabile ha la possibilità di ricevere un introito, un ricavo più elevato di quello che avrebbe se collocasse la sua energia direttamente sul mercato elettrico. C'è un'aggiunta, che è l'incentivo, cioè quello che riconosciamo in più, che serve a pagare il fatto che il suo costo di investimento era inizialmente più alto. Facciamo l'esempio del fotovoltaico, che tra l'altro vede come investitori un'amplissima gamma di soggetti che sono in larghissima quota cittadini, che installano impianti fotovoltaici sui loro tetti o nelle loro aree. Abbiamo anche investitori del fotovoltaico che non sono semplici cittadini, ma sono veri e propri operatori energetici con impianti anche a grande dimensione a terra, su cui tra l'altro meriterebbe poi una riflessione sull'uso del suolo da questo punto di vista. Ma questi investitori... La rimandiamo alla prossima occasione. Esatto, diciamo. Apriamo un filone amplissimo. Questi investitori avevano, soprattutto nella fase iniziale dei programmi di incentivazione, un costo di installazione dei pannelli fotovoltaici molto alto. Il kilowatt installato di potenza era molto più oneroso dell'installazione di un impianto termoelettrico a gas a unità di potenza installata. Questo incremento di ricavo gli ha consentito di avere un ritorno all'investimento accettabile su tempi però che sono lunghi, quindi necessitano di un incentivo di lungo periodo, 15-20 anni. Però un primo risultato di questo programma è anche stato quello che nel frattempo la diffusione su vasta scala di queste tecnologie, di queste soluzioni tecniche, ha anche aiutato a comprimere il costo di acquisto, per cui oggi un pannello fotovoltaico costa drasticamente meno di quanto costava alcuni anni fa, quando l'incentivo non esisteva. Ma adesso viene anche incentivato meno? Diciamo che complessivamente abbiamo cercato di aggiustare il valore dell'incentivo all'entità dell'investimento che nel frattempo si era assottigliato. Questa correzione però è intervenuta purtroppo tardi, per cui il mancato allineamento temporale tra riduzione dei costi di investimento e riduzione degli incentivi riconosciuti ha fatto sì di generare delle inefficienze dell'uso dei soldi. Noi non abbiamo soldi infiniti da mettere sulle rinnovabili, purtroppo, o a seconda delle considerazioni che si possono fare, insomma, abbiamo tante cose da incentivare, non è pensabile che gli incentivi rinnovabili siano infiniti. Dobbiamo usarli nel modo più efficace possibile. Con quegli euro dobbiamo ottenere più energia rinnovabile possibile. Allora, nel momento in cui eccediamo l'incentivo su qualche fonte, sbagliamo ad usare i soldi. Cito un altro esempio che mi sembra rilevante. L'Unione Europea ci pone degli obiettivi molto stringenti, in particolare al 2020, ma ce li porrà al 2030 e in prospettiva al 2050, di incremento delle fonti rinnovabili. Le fonti rinnovabili non sono solo quelle per produrre energia elettrica, sono anche quelle per produrre calore, sono soprattutto quelle per produrre calore. Noi abbiamo un sistema di incentivazione che per il 95% è orientato all'energia elettrica, ha prodotto dei risultati importanti, ma siamo indietrissimo sull'utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione di calore. Incentiviamo fortemente la produzione di energia elettrica con biomasse, bioliquidi, biogas, quando una delle soluzioni più efficaci sarebbe quella di orientarle prevalentemente verso la produzione di calore o produzione combinata di energia elettrica e calore in cogenerazione. I nostri incentivi quasi ignorano questo aspetto, solo recentemente, da un anno e mezzo circa, hanno introdotto qualche elemento di premialità che però non è sufficiente a garantire quella ottima utilizzazione che avremo invece indirizzando come uso prevalente verso il calore. Ma le pare che in fondo il gioco, a parte le difficoltà di adesso, il gioco sia valso la candela negli anni passati? Io credo che nel complesso, dovessi tirare una somma complessiva molto brutale, ne valsa la pena. Oggi però comincerei a porre un'attenzione più forte sul che cosa incentiviamo e quale risultato vogliamo conseguire. E quindi quali dovrebbero essere gli obiettivi per il futuro? In realtà gli obiettivi stanno incrementando. Una volta si dava come obiettivo il mero incremento della produzione rinnovabile. Oggi cominciamo a intravedere il raggiungimento di quote importanti del nostro fabbisogno. Sempre di più l'Unione Europea alza l'asticella, se pensiamo a paesi come la Danimarca che hanno già definito un piano energetico al 2050 che prevede l'utilizzo esclusivo di fonti rinnovabili e l'azzeramento totale dell'utilizzo di fonti fossili e di energia nucleare. Questo però non può andare da solo, cioè non basta incrementare le rinnovabili ce la fanno a coprire i nostri fabbisogni se contemporaneamente impariamo a sprecare meno energia, cioè a potenziare il risparmio energetico e l'efficienza energetica, quindi tenere calde le nostre case, illuminare le nostre strade, piuttosto che far funzionare i nostri apparecchi e motori elettrici, spostarci, i trasporti o tutte queste funzioni che riguardano la nostra vita comune. Se riusciamo a usare meno energia e quella energia produrla nel modo più efficiente possibile, le rinnovabili possono tendere a coprire quote sempre più importanti di questo fabbisogno fino a tendere al limite a coprirlo integralmente, a condizione di avere un sistema energetico in grado di utilizzarla a pieno, perché l'altro limite è quello del fatto che molte di queste fonti rinnovabili non hanno una produzione costante o programmabile. Abbiamo alcune soluzioni, la ricerca sta facendo moltissimo nel campo dello stoccaggio, dei sistemi di immagazzinamento sia elettrico che termico. Dall'altra parte anche noi consumatori forse possiamo cominciare a gestire in modo più intelligente i nostri prelievi, i nostri consumi. Quindi un incentivo per l'efficienza forse si potrebbe studiare. In realtà ne abbiamo già uno strumento in essere, si chiama titolo di efficienza energetica, è già stato avviato alcuni anni fa. Il problema è sempre trovare un giusto compromesso tra l'accuratezza dello strumento che si usa per verificare il risultato prodotto, in questo caso quanta energia abbiamo risparmiato, e però la semplicità di applicazione. È uno strumento molto più complicato da sviluppare rispetto a quello delle fonti rinnovabili. In questi anni si è cercato di lavorare in questa direzione, ma a mio avviso abbiamo ancora molto da fare. Senta, tutto questo dipende anche da una pianificazione nazionale che anche lì forse è un po' zoppicante. Io direi molto semplicemente non c'è, nel senso che il nostro ultimo piano energetico nazionale è datato 1988. Dopo si sono susseguite una serie di azioni, di provvedimenti legislativi, l'ultima è quella di questa ipotetica strategia energetica nazionale emanata qualcuno o due anni fa, che però a mio avviso è di per sé molto lacunosa, a cominciare dalla denominazione. Una strategia immaginata all'inizio degli anni 2000, all'inizio degli anni tra 2010 e 2013, che però mette come traguardo al 2020, di per sé è già un qualche cosa di curioso, nel senso che avevamo bisogno di un piano di azione, una cosa che dice già, sappiamo già cosa dobbiamo fare e ti dico come lo facciamo. Il piano energetico nazionale è un oggetto, come dire, molto spesso citato, spesso è messo in contrasto con la dinamica del nostro settore energetico che oggi è largamente liberalizzato, quindi un mercato libero fatica a digerire un piano che invece sembra un'azione più dirigistica. Il punto chiave però è che l'energia non può essere completamente liberalizzata, difatti non lo è, perché ci sono alcuni settori chiave o che hanno bisogno di indirizzi, vedi l'indirizzo che ha spinto verso le fonti rinnovabili. La necessità di un piano non è per comandare qualcuno, ma per iniziare a dire a livello di collettività quali sono le direttrici che abbiamo bisogno di perseguire. L'Unione Europea ci mette obiettivi a 10, a 20 anni, anche a 30 anni, che però diventano l'indirizzo. Anche noi a livello nazionale abbiamo sempre più necessità di individuare delle strategie di medio-lungo periodo, se no rischieremo di fare sempre iniziative estemporanee e che in parte diventano a volte anche mutuamente escludenti o che si elidono come risultati. Grazie, ricordo Alberto Poggio, ricercatore del Dipartimento Energia del Politecnico di Torino. Alla prossima. Grazie a voi. Allora, grazie a tutti per l'attenzione. Vi ricordo per scriverci l'altropianeta@radio24.it. Appuntamento alla prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini, un buon pomeriggio.